Mercato Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Ormai la misura è colma. Beppe Grillo l'ha chiamato giornalismo killer. Se vogliamo giocare al giornalismo killer, fate pure. Ma in questo momento della storia, neanche a noi interessa che la stampa perda qualsiasi credibilità. A noi interessa che ci sia un cane da guardia del potere, che dovrebbe essere la stampa libera. Questa è la dura accusa, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, di Luigi Di Maio nei confronti della stampa italiana, perché oggi tre giornali, il Corriere, la Repubblica e il Messaggero, hanno pubblicato uno scambio di SMS, la vicenda dello scambio di chat, insomma, tra Luigi Di Maio e la sindaca Raggi, a proposito di Marra, del fedelissimo, ex fedelissimo di Virginia Raggi, che poi adesso è in carcere, indagato per abuso d'ufficio e falso nella questione dell'inchiesta delle nomine. Allora, su questa vicenda pubblicata da questi giornali si dice che Di Maio avrebbe parlato molto bene di Marra con Virginia Raggi, avrebbe detto è un servitore dello Stato, in questo modo contraddicendosi con quello che ha detto domenica scorsa invece da Lucia Annunziata a Mezz'ora, al suo programma Mezz'ora, dicendo che lui lo voleva cacciare dall'inizio. Allora avete sentito che Luigi Di Maio dice che è una bufala, che questo è giornalismo killer, come ha detto Grillo, e che quindi chiederà anche risarcimenti. Allora approfondiremo questa vicenda, parleremo anche di un nuovo paragrafo, capito, che si chiude per quanto riguarda la giunta romana, perché l'assessore Berdini, al centro di una bufera per le dichiarazioni pesanti che aveva fatto sulla sindaca Raggi, ha deciso di dimettersi definitivamente, notizia praticamente di stasera, di due ore fa. E poi parleremo anche dei travagli del PD, perché Bersani oggi, all'indomani della direzione del PD che c'è stata ieri, ha detto scissione, in realtà la scissione c'è già. Insomma, abbiamo un sacco di cose di cui parlare, e queste sono soltanto alcune. Per le vostre interazioni sapete che c'è la pagina Facebook di Effetto Notte, lì per voi giorno e notte, oppure il numero per messaggio WhatsApp che è 349-238-6666. E allora io direi di partire, prima di approfondire questi vari argomenti con gli ospiti, con il riassunto della giornata. Movimento 5 Stelle, l'assessore Berdini si dimette, decisione irrevocabile, dice, il comune apre intanto sullo stadio della Roma, e nel frattempo scoppia la bufera sulla chat tra Di Maio e Raggi relativa a Marra. Partito Democratico, la scissione è già avvenuta, dice Bersani, e lancia l'appello, chi sta attorno a Renzi lo spinga a usare il buonsenso. Fini, indagato per riciclaggio, sequestrati i beni ai Tulliani. Stati Uniti, Trump perde il consigliere per la sicurezza nazionale, il generale Flynn, lascia poiché ricattabile dai russi. Intanto il presidente chiede alla Russia di restituire la Crimea. Malesia, mistero sulla morte del fratellastro del dittatore nordcoreano Kim Jong-un, avvelenato da due donne, sostengono i media. Il caso Cucchi, la procura chiede il processo per 5 carabinieri, per 3 di loro l'accusa di omicidio preterintenzionale. I costi della politica in Val d'Aosta, 15 condanne in corte d'appello di Torino, colpevole anche un assessore regionale e 5 consiglieri. La vicenda dell'uomo malato di SLA, sofferente da 5 anni, chiede di farsi addormentare finché non muore, il primo caso in Italia. Calvizie, a provocarla sono 287 geni, test su 52.000 persone, i risultati aprono nuovi farmaci. E parliamo quindi dalla notizia che è arrivata, vi dicevo, circa due ore fa da Roma. L'assessore all'urbanistica Paolo Berdini, al centro di una forte tensione con la sindaca Raggi, che lui aveva pesantemente criticato in un colloquio con un giornalista della stampa, si è dimesso in modo irrevocabile dall'incarico di assessore. A comunicarlo è stato lui stesso, Berdini, con una nota, dice: era mia intenzione servire la città mettendo a disposizione competenze e idee, prendo atto che sono venute a mancare le condizioni, dice, per poter proseguire il mio lavoro. E proprio oggi il vice sindaco di Roma Luca Bergamo ha aperto sullo stadio della Roma. Vorrei ringraziare la Roma, ha detto il vice sindaco, per aver risposto alle sollecitazioni dell'amministrazione capitolina nella riunione della scorsa settimana, presentandoci oggi una revisione del progetto che ha dei caratteri fortemente innovativi. I tavoli tecnici, dice ancora il vice sindaco di Roma, sono ancora al lavoro, faremo una valutazione di questa importante novità e ci siamo dati opportunamente appuntamento alla prossima settimana. Ma la situazione in casa dei 5 Stelle è tesa, soprattutto, vi dicevo, per un'altra vicenda. Nonostante il contrattacco del leader Beppe Grillo, fanno discutere le rivelazioni sugli SMS di Di Maio a favore di Marra. Beppe Grillo torna a tuonare contro la stampa dopo la diffusione di un messaggio inviato ad agosto da Luigi Di Maio a Virginia Raggi. Nello stralcio pubblicato stamattina da Corriere della Sera, Repubblica e Messaggero, al contrario di quanto detto negli ultimi giorni, il vicepresidente della Camera sembrava sostenere Raffaele Marra, l'uomo forte della sindaca di Roma, arrestato a dicembre per corruzione. Nella prima parte del testo, però, diffusa in giornata dallo stesso Grillo, Di Maio affermava invece che Marra non avrebbe dovuto restare nel gabinetto della sindaca, l'opposto quindi di quanto sostenuto dai tre quotidiani. Dal suo blog, il leader del Movimento 5 Stelle torna a parlare di stampa killer. Vogliono impedirci di andare al governo, si chiede Grillo, che accusa i giornali incriminati di aver riportato notizie false e fuorvianti e annuncia richieste di risarcimento danni. Nel messaggio in questione viene citato anche il procuratore capo di Roma Pignatone, che dal canto suo fa sapere di non aver mai dato alla sindaca Raggi notizie su Marra coperte dal segreto investigativo. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E poi su questo torneremo. Intanto però la situazione, seppur per motivi diversi, è travagliata anche nel Partito Democratico. All'indomani della direzione del partito, Pierluigi Bersani torna a parlare del futuro del PD e della necessità di garantire sostegno al governo in carica. Il primo banco di prova sarà domenica all'assemblea del partito. Tra presenti e assenti, il PD comincerà la conta di chi è dentro e chi si prepara ad andare fuori, perché la scissione, secondo Pierluigi Bersani, è di fatto già avvenuta. È già avvenuta tra la nostra gente, lamenta in transatlantico il giorno dopo la direzione. Qui il problema è se siamo il PD o il PDR, ossia il partito di Renzi, chiosa l'ex segretario, non lesinando a fondi contro l'ex premier e la sua roadmap. Due mesi per un congresso lampo ed elezioni anticipate. Lui il congresso lo vorrebbe a giugno, ma il nodo non è il calendario. Piuttosto per Bersani, che non ha ancora sciolto le riserve sull'assemblea, il punto è chiarire se il partito sostiene il governo o se invece stiamo parlando di far dimettere Gentiloni in streaming. Di sicuro il bivio è molto serio e i toni riflettono il momento. Non siamo un gregge di pecore, taglia corto uno dei leader della minoranza Dem, che fa appello al buon senso di chi sta intorno a Renzi, perché da lui, accusa Bersani, solo dita negli occhi. Parole pittoresche per Giachetti, mentre Cooper lo resta fiducioso nella possibilità di una dialettica positiva, consapevole che la scelta di non partecipare all'assemblea, riflette, sarebbe una rottura difficilmente recuperabile. Il ring si apre domenica all'Hotel Parco dei Principi di Roma. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Poi torneremo sulla politica italiana più tardi. Adesso invece parliamo della politica italiana, di un esponente della politica italiana di una volta. Concorso in riciclaggio e indagato l'ex presidente della Camera Gianfranco Fini. Concorso in riciclaggio, di questo è accusato Gianfranco Fini nell'ambito di un'inchiesta che ha portato alla Guardia di Finanza a sequestrare questa mattina beni della famiglia Tulliani per un valore di 5 milioni di euro e che lo scorso dicembre aveva portato all'arresto nelle Antille olandesi del re delle slot machine Francesco Corallo, personaggio con forti legami con la mafia catanese. Un giro di riciclaggio internazionale legato al gioco d'azzardo, nel quale è dunque spuntato anche il nome dell'ex presidente della Camera. In sostanza, secondo la accusa, Elisabetta Tulliani, il padre Sergio e il fratello Giancarlo avrebbero aiutato Corallo a far sparire ingenti somme di denaro versandole sui propri conti esteri. Con una parte di queste somme sarebbe stata poi acquistata la casa di Monte Carlo, quella che contribuì alla fine della carriera politica di Fini. I Tulliani sono accusati di riciclaggio, reimpiego e autoriciclaggio posti in essere dal 2008, mentre il ruolo di Fini sarebbe stato quello di intermediario tra loro e Corallo. L'avviso di garanzia è un atto dovuto, è il commento dell'ex presidente di Alleanza Nazionale, che assicura di avere piena fiducia nell'operato della magistratura. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. Una notizia che arriva dalla pubblica amministrazione. Sulla pubblica amministrazione, il piano straordinario di assunzioni per il superamento del precariato storico della pubblica amministrazione, infatti, interesserà quanti hanno maturato almeno 3 anni di servizio, anche non continuativi, per superare appunto il precariato. Sarebbe questa l'anzianità richiesta nelle bozze della riforma Madia finora circolate, infatti il numero di anni non era ancora stato specificato. Devono essere 3 e anche non continuativi eventualmente. E poi il dato sul prodotto interno lordo del 2016, che migliore delle attese, aiuta il governo alle prese con la manovra aggiuntiva da presentare a Bruxelles. Dati sull'economia italiana, quelli diffusi dall'Istat, migliori rispetto alle stime del governo e in linea invece con quelle dell'Unione Europea. Il 2016, secondo l'Istituto di Statistica, nelle sue stime flash si chiude con un più 0,9% del PIL rispetto al 2015, 0,9% che diventa un più 1% correggendo il dato con gli effetti del calendario. Le stime di ottobre di Palazzo Chigi indicavano un più 0,8%. L'ultimo trimestre del 2016 fa segnare inoltre un più 1,1% sul 2015, mentre in calo rispetto a quello precedente 0,2 rispetto a 0,3. I dati definitivi sull'economia italiana arriveranno comunque il 1 marzo e qualora le stime fossero confermate, il 2016 sarebbe il migliore risultato annuale dal 2010. Ne gioverebbe il rapporto deficit-PIL e di conseguenza anche il rientro del disavanzo concordato con l'Europa potrebbe essere rivisto al ribasso. Il governo è determinato a proseguire con le riforme per favorire la crescita, commenta il presidente del Consiglio Gentiloni. I dati danno ragione a una politica economica fatta di attenzione ai conti, riforme, sostegno a investimenti privati e pubblici, spiega il ministro dell'economia Padoan. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Ora una sentenza che riguarda la Val d'Aosta, modificando in parte la sentenza di primo grado. La prima sezione penale della Corte d'Appello di Torino ha condannato 15 dei 27 imputati dell'inchiesta sui costi della politica in Valle d'Aosta. Le accuse sono a vario titolo di peculato, finanziamento illecito al partito e indebita percezione di contributi pubblici. Tra i condannati ci sono anche l'assessore regionale del PD Raimondo Donzella e altri 5 consiglieri. Poi magari più tardi proviamo a ricostruire più nel dettaglio la vicenda. Adesso invece spostiamoci sulle notizie dall'estero. Negli Stati Uniti Trump perde un suo fedelissimo, il consigliere per la sicurezza nazionale, il generale in pensione Michael Flynn lascia l'incarico dopo le polemiche per i suoi rapporti con i russi e al suo posto è in arrivo David Petraeus. Nel frattempo la presidente della Fed, la Banca Centrale Americana, Janet Yellen, annuncia un aumento dei tassi nei prossimi incontri. Durante l'audizione oggi al Senato ha attaccato le prime scelte di Trump sui migranti, che sono, ha detto, una risorsa importante per il mercato. Poi sull'abolizione dell'Obamacare, ha detto, può avere effetti sui consumi e sulla mobilità. Giudica le politiche di bilancio allo studio dell'amministrazione Trump una traiettoria insostenibile e denuncia i cyberattacchi, dice, sono maggiori rischi per la finanza, ma rassicura, resto fino alla fine del mio incarico. E oggi Trump, che professa da tempo, come sapete, un suo buon rapporto con Putin, ha detto chiaramente che si aspetta dal governo russo una de-escalation delle violenze in Ucraina e la restituzione della Crimea. Sarebbe interessante sapere come l'ha presa Putin questa dichiarazione, questa richiesta di restituzione della Crimea. Adesso invece in Corea del Nord è morto avvelenato a Kuala Lumpur, in Malesia, il fratellastro del dittatore nordcoreano Kim Jong-un. Ucciso con uno spray chimico tossico con punte avvelenate mentre si trovava all'aeroporto di Kuala Lumpur in Malesia. Sarebbe morto così ieri Kim Jong-nam, fratellastro del dittatore nordcoreano Kim Jong-un. Ad avvelenarlo due donne, forse due spie della Corea del Nord, poi fuggite. L'assassinio, degno di un romanzo di spionaggio, è l'ultimo colpo di scena nella telenovela della corte nordcoreana. Figlio maggiore di Kim Jong-il, padre dell'attuale leader nordcoreano, Kim Jong-nam era nato da una relazione extraconiugale. Sua madre era un'attrice sudcoreana. Sembrava in un primo momento destinato dal padre a raccogliere l'eredità, quando la sua carriera è stata stroncata da un episodio strano, anch'esso da film però comico. Nel 2001 Nam era infatti stato fermato all'aeroporto di Tokyo mentre tentava di entrare in Giappone con un passaporto falso dominicano. Agli agenti si era giustificato dicendo di voler portare suo figlio a visitare Disneyland. C'è chi sostiene che Kim Jong-nam temesse di essere assassinato, chi dice che lui stesso stesse complottando per uccidere il fratellastro, chi invece assicura che lavorasse in segreto per il dittatore nordcoreano. Roberta Pellegrini, Gatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Di nuovo in Italia con il caso Cucchi, la Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio dei 5 carabinieri coinvolti nell'inchiesta sulla morte del geometra romano avvenuta una settimana dall'arresto nel reparto protetto dell'ospedale Pertini. Per 3 di loro, di questi carabinieri, l'accusa è di omicidio preterintenzionale falso e calunnia invece per gli altri 2. E adesso questa storia molto particolare, delicata, la vicenda dell'uomo malato di SLA che in provincia di Treviso è morto facendosi addormentare. La pratica non è nuova né sconosciuta al mondo cattolico. Lo stesso cardinale Carlo Maria Martini ricorse alla sedazione profonda per arrivare alla morte senza dolore. Il caso che raccontano le cronache di queste ore è quello di Dino Bettamin, da Montebelluna, provincia di Treviso, 70 anni, di cui gli ultimi 5 malato di SLA. Una delle infermiere che l'ha seguito è Anna Tabarin. era un paziente tracheostomizzato e ventilato da 2 anni, quindi viveva con il ventilatore sempre appresso e nei precedenti 2 anni ha condotto con il ventilatore una vita assolutamente normale. Poi, racconta Tabarin ad Effetto Giorno, nelle ultime 2 settimane un peggioramento e la richiesta: voglio dormire fino alla morte. Il sonno era l'unica condizione nella quale i suoi sintomi svanivano, cioè l'unica condizione che gli garantiva una vita adeguata e degna. Secondo la stessa infermiera e secondo i medici, non si tratta di eutanasia dunque, ma di un modo di trascorrere l'ultima parte della propria vita senza sofferenze. Betamin spiega a chi lo ha curato: era molto credente, ma il confine resta molto sottile e la legge sul fine vita, che finalmente approderà in aula tra meno di una settimana, non sembra poterlo sciogliere. Simone Spezia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E per chiudere parliamo di calvizie. Sono bene 287 le regioni del DNA responsabili della calvizie e averla identificata aiuterà a stabilire se e quanto un uomo rischia di perdere i capelli. La ricerca è stata condotta su 52.000 persone dell'Università di Edimburgo e pubblicata su PLOS Genetics. Indica che il problema della perdita dei capelli è più complesso di quanto si pensasse. Per buona parte viene ereditato geneticamente dalla madre. I risultati, questo è l'importante, aprono a nuovi farmaci, ma non parlerò di questo argomento. Abbiamo ben altri argomenti di cui occuparci tra pochissimo, dopo gli aggiornamenti per la viabilità. Per le vostre interazioni, pagina Facebook di Effetto Notte oppure il 349-238-6666, che è il numero per WhatsApp ed SMS. Ringrazio Erika che dice: Roberta, è impeccabile, se lo dici tu. Dice: nonostante il leggero raffreddore, non ho una bronchite cattivissima che porto dietro da mesi ed è il momento di curarla, ma ci sentiamo tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Notizie che vi ricordo tra pochissimo, se lo avete acceso puntualmente alle 21, avete sentito però il riassunto della giornata. Parleremo a cominciare dalla politica adesso con gli ospiti tra pochissimo, perché è in primissimo piano sia il Movimento 5 Stelle che il Partito Democratico all'indomani della direzione. Per i vostri messaggi, vi dicevo come sempre, pagina Facebook di Effetto Notte oppure il 349-238-6666. Dice per esempio Giovanni, poi lo chiederemo tra pochissimo a Manuela Perrone, gliel'abbiamo già chiesto forse una volta. Dice: Roberta, scusa, ma dato che sei una giornalista, mi chiedo come sia possibile che qualcuno legga un SMS di un'altra persona senza averne l'autorizzazione. Questa è una palese violazione della privacy, non puoi non essere d'accordo. Posso essere d'accordo, però d'altronde i giornalisti d'inchiesta questo fanno di mestiere ed è chiaro che più notizie anche sottobanco hanno e più riescono a raccontare le cose, a volte nel modo giusto, a volte nel modo sbagliato. Adesso al di là dei casi ne parleremo tra pochissimo. E poi c'è invece un'altra ascoltatrice, vediamo se lo ritrovo, dice: purtroppo ho perso la 34esima puntata sulla Raggi, la potete replicare, ma anche se anche Di Maio avesse detto il contrario, quale sarebbe il problema? Non credo che sarebbe un grandissimo problema semplicemente il fatto di cambiare idea, ma comunque, visto che lui rappresenta il leader in pectore del Movimento 5 Stelle, vicepresidente della Camera, e che ha detto che Marra è dall'inizio che voleva mandarlo via, il fatto, se fosse vero, che invece ne parlava molto bene, insomma, comunque all'interno di un movimento così importante, così in vista e che sta governando Roma, è proprio una bazzecola. Comunque, tra poco ce ne occupiamo. Adesso vi ricordo i fatti principali se non avete acceso puntualmente la radio. Renzi verso il congresso, lo abbiamo sentito ieri dopo la direzione del PD, c'è lo spettro però della scissione. Bersani dice: in realtà è già avvenuta, il partito è già diviso, lo facciano riflettere, riferito a chi sta intorno a Renzi. Verdini, assessore all'urbanistica di Roma, lascia, pensano solo allo stadio, dice, con tutti i problemi di Roma. L'assessore all'urbanistica dentro questa bufera dei commenti pesanti nei confronti della Raggi, e la sindaca oggi insieme a tutto il Movimento 5 Stelle attacca i giornali. Da parte dei giornali c'è la replica: nessuna selezione delle frasi di questa chat di cui parleremo tra poco. E poi l'Italia Italia che cresce dello 0,9% nel 2016, un pochino meglio del previsto. Trump perde un fedelissimo, lascia Flynn, che era il capo della strategia nazionale, perché è ricattabile dai russi. E poi Fini, ex segretario di AN, indagato per riciclaggio, sequestrati beni ai Tulliani. Caso Cucchi, la procura chiede il processo per 5 carabinieri, per 3 di loro l'accusa di omicidio preterintenzionale. E poi questa vicenda di un uomo di Treviso che era malato di SLA da 5 anni ha chiesto di farsi addormentare finché non è morto, ed è il primo caso in Italia. E questo mistero sul fratellastro del dittatore nordcoreano Kim Jong-un, avvelenato in Malesia, ucciso parrebbe da 2 donne con uno spray velenoso all'aeroporto. Passiamo adesso sulla politica italiana, come vi dicevo, con protagonisti senz'altro oggi sia il Movimento 5 Stelle che il PD, ma iniziamo dal Movimento 5 Stelle, non solo per la vicenda degli scambi di SMS cui è stato chiamato in causa Luigi Di Maio, ma anche prima di tutto perché, per la notizia che è arrivata questa sera, 2 ore fa, le dimissioni irrevocabili dell'assessore all'urbanistica Paolo Berdini. A comunicarlo è stato lui stesso. In una nota ha detto: era mia intenzione servire la città mettendo a disposizione competenze e idee, prendo atto che sono venute a mancare le condizioni per poter proseguire il mio lavoro. E ancora dice: dovevamo riportare la città nella piena legalità e trasparenza delle decisioni urbanistiche, invece si continua, scrive Berdini, sulla strada dell'urbanistica contrattata che, come noto, ha provocato immensi danni a Roma. Quindi chiedo alla nostra Manuela Perrone del Sole 24 Ore. Ciao Manuela. Ciao Roberta. Si chiude dunque un capitolo, forse un paragrafo, delle travagliate vicende della Giunta Raggi? Sì, si chiude, l'addio di Berdini era nell'aria. Un po' inevitabile, no? Si trattava, sì, ormai di un divorzio. Anche la stessa due diligence di cui si era parlato ieri come condizione per decidere se tenerlo o meno, insomma, era apparsa da subito come una farsa. La novità di stasera sono i toni durissimi che ha usato Berdini nell'addio, che arrivano tra l'altro subito dopo la fumata bianca sullo stadio della Roma. Sì, il vice sindaco Luca Bergamo aveva detto: insomma, il tavolo tecnico è costruttivo, ci sono state delle modifiche innovative da parte dei tecnici, eccetera, si può andare avanti, no? Ha detto. Si può andare avanti, si andrà avanti, perché l'obiettivo confermato è quello di chiudere il 3 marzo, quando scade la conferenza dei servizi. E Berdini a questo proposito ha detto: mentre le periferie sprofondano in un degrado senza fine e aumenta l'emergenza abitativa, l'unica preoccupazione sembra essere lo stadio della Roma, che è un attacco politico al Movimento 5 Stelle e anche a quello che era a quelle che erano le sue bandiere, e cioè la difesa appunto delle periferie per ricucire con il centro della città, e anche un rimprovero a non aver affrontato adeguatamente l'emergenza casa. Quindi insomma un addio al vetriolo. Sentiremo poi se ci saranno delle reazioni. Aspetta che vedo subito, proprio adesso, un flash d'agenzia. La sindaca Raggi prende le deleghe all'urbanistica di Berdini. Beh, chiaramente in questo momento, visto che non c'è nessun altro, questa è la notizia. Campidoglio assicurano, almeno informalmente, che a breve arriverà il sostituto. Senti, e quindi anche qui un altro che se ne va per motivi diversi, insomma, c'è stato tutto questo via vai. Diciamo che forse uno dei comuni con maggior via vai che si sia visto, no? Forse giusto la regione Sicilia con Crocetta, insomma. Invece l'altra grossa vicenda, che poi è stata sopravanzata da queste dimissioni, è quella di cui si è discusso tutto oggi, no? Cioè questa storia della chat, del scambio di SMS tra Luigi Di Maio e Virginia Raggi sul ruolo di Raffaele Marra. Cioè lui avrebbe detto, secondo i giornali che hanno pubblicato queste notizie, quindi, e che lui ha attaccato duramente, così anche Grillo, parlando di killeraggio giornalistico, eccetera, eccetera, sono Corriere Repubblica e Messaggero che hanno scritto che in questi scambi di chat con Virginia Raggi lui avrebbe scritto di Marra, che era un servitore dello Stato, mentre già da tempo diceva: io lo volevo cacciare dall'inizio. E lo stesso ha detto domenica a 8:30 alla trasmissione Mezz'ora di Lucia Annunziata su Rai 3, no? Quindi l'accusa è quella di essersi contraddetto. Lui in realtà dice: assolutamente non ho ritrovato questa frase, che era un servitore dello Stato, e appunto ha attaccato la stampa. Ci aiuti a capire qualcosa di più in questa storia? No, in Manuela, realtà lui non ha rinnegato la frase, ma ha ritrovato la chat integrale e ha denunciato come il messaggio pubblicato sui tre quotidiani fosse parziale, perché non riportava tutta la conversazione precedente. Perché era parziale? Perché i tre quotidiani si sono basati sugli atti, sul telefonino di Marra, quindi sulla chat ritrovata sul telefonino di Marra, che era agli atti dell'inchiesta, e la sindaca, per tranquillizzare Marra, aveva inoltrato al suo allora vice capo di gabinetto il messaggio in cui Di Maio si limitava a dire effettivamente è un servitore dello Stato, sui miei il movimento fa accertamenti ogni mese, l'importante è non trovare nulla. Questo messaggio è stato interpretato come la copertura che Di Maio avrebbe garantito a Marra. In realtà, scorrendo la chat integrale, si capisce tutt'altro, e cioè si capisce quello che poi Di Maio ha giustamente, anche con una certa dose di rabbia, ha tentato poi di spiegare anche questo pomeriggio in diretta Facebook. E cioè si capisce che precedentemente il movimento aveva sollecitato Raggi a chiedere conto alla procura su una ventina di persone, quindi sui profili, diciamo così, giudiziari di una ventina di persone, tra cui lo stesso Marra, e poi si capisce qual è stato l'oggetto dell'incontro, il famoso incontro tra Marra e Di Maio del 6 luglio, e Di Maio li chiarisce: in quella riunione Marra non mi ha chiesto se andare in aspettativa o meno, semplicemente mi ha raccontato i fatti, io l'ho ascoltato perché tu, Raggi, me lo avevi chiesto, sono rimasta a disposizione tua, non sua, ma soprattutto scrive a Raggi e penso che nel gabinetto non ci possa stare perché ci eravamo accordati così. Quindi quando Di Maio dice che aveva, come dire, riferito a Raggi che il movimento non voleva che lei lo tenesse nel gabinetto, Di Maio dice il vero. Quindi è andata così. Questa frase invece del servitore dello Stato non ho capito bene a cosa si riferiva. Si riferiva effettivamente a lui, a Marra. Perché quando tentava di tranquillizzare la sindaca, gli ricordava: sì, va bene, è un servitore dello Stato, ma il movimento, lui dice alla sindaca, sui miei il movimento fa accertamenti ogni mese, non c'è niente di strano, anzi, più sempre dopo la conversa, dopo il messaggio incriminato, le ricorda anche: noi siamo il Movimento 5 Stelle, non ti sentire accerchiata, Virginia. Ho capito, quindi per il momento si chiude così questa vicenda, anche se Di Maio ha annunciato la richiesta di risarcimenti, e poi si vedrà, insomma, se procede in questo senso. Abbiamo risposto anche a Diaz, che dice: siete l'unica radio mainstream seria, per favore sapete leggere, la chat è chiarissima, per favore non perdete l'autorevolezza. Manuela Perrone ci ha spiegato com'è andata. Grazie intanto Manuela Perrone del Grazie Sole 24 Ore, ciao, buon Grazie lavoro. A voi. Ciao, ciao Manuela. Già avvenuta nel corpo del nostro elettorato, del nostro popolo di riferimento, quindi credo che il nostro problema sia quello di dare un segnale di ricevuto, di provare a riprendersela questa gente qua, perché se le mettiamo le dita negli occhi non andiamo da nessuna parte. Questo è il tema che ho cercato di porre, invocando una discussione profonda, e invece abbiamo avuto una risposta molto secca: avanti, dritti, così. Facciamo un congresso cotto e mangiato e discutiamo il meno possibile. Bersani, insomma, della minoranza PD non è contento di come è andata ieri la direzione, dove è passato l'ordine del giorno di Renzi, cioè il fatto di andare subito al congresso. La maggioranza ha votato in questo senso, però Bersani dice, a proposito di chi chiedeva oggi, allora la scissione, dice, ma la scissione in realtà è già avvenuta, cioè il partito è spaccato, ma la scissione è avvenuta soprattutto con parte degli elettori, cioè quelli che non si riconoscono in questo centro-sinistra, in questo PD di Renzi. E non per niente, fra l'altro, Giuliano Pisapia, ex sindaco di Milano, proprio oggi ha presentato ufficialmente il suo campo progressista, col quale sembra voglia dare un po' voce appunto a coloro che sono a sinistra del PD renziano, però dice non in antagonismo, ma magari per andare insieme in coalizione, in alleanza alle elezioni. Ne parliamo con Emilia Patta del Sole 24 Ore. Cara Emilia, buonasera. Buonasera. Quindi ha fatto titolo, ha fatto, diciamo, una certa impressione questa dichiarazione di Bersani oggi, di dire in realtà la scissione è già avvenuta. Sì, ha fatto impressione perché per la prima volta sembrano concreti i venti di scissione. Sembra concreta la possibilità che Bersani e i suoi non partecipino neanche all'assemblea di domenica che avvierà il congresso. E sembra una questione procedurale, perché Bersani dice un congresso fatto in fretta sarebbe solo una gazzebbata per riconfermare Renzi, mentre non sarebbero toccati i problemi di fondo del paese e le ricette per risolverli. In realtà un congresso è sempre un momento di discussione, no? Ma è una separazione che c'è in casa già da molto tempo. Il problema è che sono proprio due culture diverse, due mentalità diverse, e la scelta definitiva che ha portato a questa situazione è stato il no al referendum annunciato da Bersani, da Speranza e da altri. Non a caso per una persona come Cuperlo, Gianni Cuperlo, che pure sui temi, sui problemi concreti, anche più a sinistra di Bersani, non ha nessuna intenzione di uscire, è rimasto dentro e si era schierato per il sì al referendum. Anche se si è chiesto se il PD è fatto di balene che si spiaggiano come in Nuova Zelanda, oppure dei soccorritori che le salvano, no Emilia? Di cosa è fatto il PD oggi? Perché molti si sono detti, aspetta, sentiamo un attimo Emiliano, che tra l'altro si candida a sostituire Renzi come segretario sulla 7. Allora, diciamoci, Bersani, D'Alema, chi no, si diciamo oppone a Renzi, verità. Diceva servono tempi lunghi, e Renzi diceva servono tempi brevi. Capisce che così uno dice, beh, c'ha sì, ragione, ma Renzi, che volete fare? No, detto chiaro, non è una questione di tempo, okay, o di calendario. Qui non ci stiamo trovando su nulla. Avevamo un'idea del lavoro, delle norme sul lavoro. Per esempio, avevamo detto che non avremmo mai cambiato l'articolo 18, invece ci siamo trovati a cambiarne pesantemente la struttura. Non avevamo mai pensato di rendere così flessibile il lavoro, di arrivare fino ai voucher addirittura. Non pensavamo di lasciare intatto il precariato, persino di Stato, perché abbiamo moltissimi precari che tengono in piedi sistemi di ricerca, statistici, che svolgono lavori. Insomma, sono questioni di sostanza, quindi, Emilia, al di là del girarsi intorno, della leadership, sì, delle invidie, sì, delle... A parte che sarebbe da rispondere a Emiliano che i precari sono anche, lavorano anche per la CGIL, no? Come è noto, quindi è un problema annoso questo. Però appunto quello volevo dire, sembra una questione procedurale, ma è una questione che risale dall'insediamento di Renzi. Tuttavia il Jobs Act è stato votato ormai 2 anni fa, perché la scissione arriva adesso? Allora sarebbe più comprensibile agli occhi degli elettori del centro-sinistra, di una certa sinistra, una scissione proprio sui contenuti, no? Io ho un'idea del lavoro diversa, certo, e quindi fatta così sul congresso, quando il congresso è in tutti i partiti un momento di discussione sulle piattaforme politiche, è poco comprensibile. E il punto è che appunto a mio avviso la separazione sul referendum ha definitivamente fatto separare le due strade, si andrà probabilmente verso, non a caso anche Pisapia aveva detto sì al referendum, non è da sottovalutare questo, si andrà verso un rassemblamento di riformisti che non hanno più a che fare direttamente con la sinistra, no? Ma è il sistema, antisistema. E ora Bersani, che in realtà è stato un grande riformista di questo paese, ricordiamo le liberalizzazioni, sì, ricordiamo la sua partecipazione ai governi Prodi, che hanno anche privatizzato, quando adesso Renzi dice che non bisogna più privatizzare, no? Quindi le posizioni sono sfumate. Bersani si trova, se esce, a fare cosa? E questo è il problema a cui deve rispondere, perché non può unirsi al suo ex consigliere economico Fassina, che dice che bisogna uscire dall'euro, perché neanche Bersani Pisapia è uno di quelli che l'ha costruito. Neanche l'euro. Pisapia bisogna vedere se Pisapia lo vuole. Sentiamo un attimo questo passaggio di Pisapia oggi, quando ha presentato Campo Progressista. Non è possibile che si prospetti ancora, così come è stato fino adesso negli ultimi 3 anni, ecco la discontinuità, il fatto che si possa pensare che una parte del centro-sinistra possa governare con la destra e con centro-destra. Non lo voglio più vedere. Quindi su questo è stato chiaro, basta alleanze, grandi coalizioni, centrosinistra e basta, ha detto Pisapia. Direi, Emilia, che adesso ci dobbiamo lasciare, volevi fare proprio una chiosa su questa dichiarazione di Pisapia? Sì, è il motivo per cui, di questo se ne rende conto anche Renzi, è il motivo per cui non vuole il premio alla coalizione, vuole il premio alla lista, così non è costretto ad allearsi con qualcuno, sì, chiaro. Vedremo. Però il problema vero è che con la vittoria del no al referendum sono rimaste due camere e il sistema elettorale è molto difficile, come si vede, da riformare. E quindi non è nella volontà, no, nelle dichiarazioni, non si fa mai la grande coalizione. Può darsi che sarà purtroppo per una la sinistra una necessità, come è successo in Gran Bretagna e Spagna. È un problema proprio di sistema. Ecco. La sinistra si può mettere insieme e dire noi cerchiamo di raggiungere il 40%, ma insomma sono poche le probabilità che ciò accada. Riuscirci. Quindi alla fine è inutile fare questi proclami poco realistici, ecco quello che volevo dire. Chiarissima, grazie Emilia Patta, buon lavoro anche a te, buona grazie, chiusura del giornale. Ciao Emilia, direi che sì, dobbiamo prendersi subito questa pausa, tra pochissimo. Benvenuto nella tua auto. Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto. Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Dibidi dobidi DAB. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte siete al posto giusto, nel momento giusto, anche con la giusta conduttrice. Con voi Roberta Giordano. E tra l'altro nei vostri messaggi pagina Facebook di Effetto Notte o 349-238-6666 c'è qualcuno che pretende a volte di avere ogni sera un riepilogo delle puntate precedenti. Non è possibile, dovremmo andare avanti ore e ore. Per esempio Alessandra che scrive: salve, non posso credere che non abbiate la notizia del suicidio del sedicenne a Genova, causa perquisizione per pochi grammi di hashish, una grave storia su cui si deve riflettere. E abbiamo riflettuto, Alessandra, ma ieri, perché la notizia era di ieri, poi tu l'avrai vista sui giornali oggi, ma la radio ha proprio questa forza di poter immediatamente essere flessibile e parlare sul momento di quello che succede, non ha bisogno di aspettare il giorno dopo. E poi invece sulle questioni politiche molti messaggi. Dice per esempio questo ascoltatore, Carlo da Torino: il Movimento 5 Stelle con un no secco a quel progetto folle dello stadio perderebbe qualche romanista e acquisirebbe stima impensabile. Ovviamente diranno di sì, hanno praticamente già detto di sì con alcune modifiche. Poi invece dice Silvia: Roberta cara, chi potrà mai salvare la mia amata città di Roma dal declino inesorabile cui pare ormai destinata? Altro che Berdini, tutta la giunta andrebbe smantellata e alla svelta, la città moribonda è ostaggio di una squadra di incapaci che non fa che prolungare l'agonia. Adesso vediamo come procederanno. Sono stati la sindaca Raggi sicuramente super votata. E poi Carlo da Treviglio: qualcuno spieghi al PD che l'angolo giro è di 360 gradi, quindi a furia di andare a sinistra della sinistra, puntini puntini. Adesso però vi ricordo le notizie più importanti della giornata. Movimento 5 Stelle, l'assessore Berdini si dimette, decisione irrevocabile, dice il comune, apre sullo stadio della Roma. Intanto scoppia la bufera sulla chat tra Di Maio e Raggi relativa a Marra. Partito Democratico, la scissione è già avvenuta, dice Bersani, e lancia l'appello: chi sta attorno a Renzi lo spinga a usare il buon senso. Fini, indagato per riciclaggio, sequestrati beni ai Tulliani. Stati Uniti, Trump perde il consigliere per la sicurezza nazionale, il generale Flynn lascia poiché è ricattabile dai russi. Intanto il presidente chiede alla Russia di restituire la Crimea. Il caso Cucchi, la procura chiede il processo per 5 carabinieri, per 3 di loro l'accusa di omicidio preterintenzionale. I costi della politica in Val d'Aosta, 15 condanne in corte d'appello di Torino, colpevole anche un assessore regionale e 5 consiglieri, poi ne parleremo. La vicenda dell'uomo malato di SLA, sofferente da 5 anni, chiede di farsi addormentare finché non muore. È il primo caso in Italia. Calvizie, a provocarla sono 287 geni, test su 52.000 persone, i risultati aprono a nuovi farmaci. Oggi è naturalmente, come tutti sanno, San Valentino, il patrono delle persone innamorate, quindi da celebrare se sono felici, se è un amore vero, sereno. Però sappiamo purtroppo che ci sono anche tanti cosiddetti amori che in realtà sono dei finti amori, degli amori che malintesi, fatti di sopraffazione, di violenza, di persecuzione, diciamo che purtroppo le cronache ce lo raccontano più o meno tutti i giorni anche in Italia. E proprio in occasione di San Valentino intanto riparte la campagna della polizia italiana, rilancia la campagna contro lo stalking e le violenze. C'è un video contro la violenza sulle donne che sta circolando di nuovo a partire da oggi. E poi c'è anche questa cosa molto importante in varie città italiane, questo flash mob collettivo. Il flash mob, voi sapete, è una specie di improvvisazione, di assembramento di persone estemporaneo, lampo, che però diciamo è come un tam-tam in varie parti di una nazione, a volte anche del mondo, per ricordare una cosa importante. Oggi appunto è la campagna, torna il 1 Billion Rising, che è 1 miliardo di voci contro la violenza su donne e bambine. Vi ricordate nel 2013 Eve Ensler, che è l'autrice famosa dei monologhi della vagina, che lanciò in tutto il mondo questa campagna rivoluzionaria, appunto 1 Billion Rising, che è il punto di partenza. Il motivo era stato proprio la drammatica statistica per cui una donna su tre in tutto il pianeta nella sua vita sarà picchiata o violentata, una su tre nel corso della propria vita in tutto il mondo. Ne parlo con Nicoletta Billi, che è una delle coordinatrici italiane della campagna, di questa campagna 1 Billion Rising in Italia. Nicoletta, buonasera. Buonasera Roberta. Allora, anche in Italia giustamente ha avuto presa questa iniziativa. Sì, questo è il quinto anno che si svolge questa trasformazione di San Valentino. E quest'anno abbiamo più di 150 eventi sul territorio, declinati nelle maniere, nei modi più differenti, mm-hmm. ma sostanzialmente legati dalla volontà di affermare che questo tema è presente, questa volontà è quotidiana ed è un movimento, è un concetto che attraversa il pianeta e va ben oltre il nostro territorio. Quindi da una parte per fortuna e dall'altra parte purtroppo, perché significa, come ho detto tante volte, che è un fenomeno che si perde nella notte dei tempi e che è a qualsiasi latitudine, no? Quello della violenza sulle donne, Nicoletta. Che come sappiamo è un problema di patriarcato e quindi andiamo a toccare dei temi finiti. Comunque noi apparteniamo, non scordiamoci, apparteniamo a una delle situazioni geografiche in qualche modo dove la violenza pur quotidiana in casi sporadici non riguarda modalità di comportamento, di destino, di vita come in tante altre parti del mondo. Pensiamo alle bambine vendute, alle spose, alle scissioni, a mutilazioni genitali che sono quotidianità, bestie da sommo, merce di scambio e quindi siamo, come dire, noi apparteniamo alla parte più privilegiata e nonostante questo i fatti sono sotto gli occhi di tutti, quotidiani, di profonda ineducazione al rispetto e alla parità, no? Quindi Nicoletta, dicevamo quante sono le iniziative solo in Italia? 150, ma ci sono 200 nazioni nel mondo che oggi fanno parte di questo filo rosso. Che peraltro ha come momento una volontà di gioia, di affermazione, di fierezza, con la volontà di veramente andare avanti, di cambiare, di profondamente trasformare. È un lavoro lungo, sì, va fatto tutti i giorni. Grazie intanto a Nicoletta Billi. Grazie. Grazie a te, Roberto. Grazie, buone manifestazioni. Ciao. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Sempre Roberto Giordano con voi, le notizie ve le ricordo in pochi secondi. Renzi verso il congresso, così questo è emerso ieri dalla direzione PD, però c'è lo spettro della scissione. Bersani oggi ha detto il partito è già diviso, è già spaccato, lo facciano riflettere, riferendosi a Renzi. Berdini, assessore all'urbanistica di Roma, lascia definitivamente, dice dimissioni irrevocabili, pensano solo allo stadio e non pensano alle periferie e al disastro di Roma, così attacca Berdini. E poi c'è c'è la vicenda delle chat, che ci sarebbe stato questo scambio di sms tra Luigi Di Maio e la sindaca Raggi, che, di cui oggi hanno dato notizia tre quotidiani, e Grillo parla di killeraggio giornalistico. La replica da parte di questi quotidiani è: nessuna selezione delle frasi che sono state riportate. Poi l'Italia cresce dello 0,9% nel 2016, un po' più del previsto, anche se insomma sempre piuttosto a rilento. Trump, il presidente americano, perde un fedelissimo, il capo della strategia nazionale, l'ex generale Flynn, perché è ricattabile dai russi. E poi Fini, ex presidente di Alleanza Nazionale, indagato per riciclaggio, sequestrati beni ai Tulliani, alla famiglia Tulliani. Sapete che è la sua compagna, appunto, della famiglia Tulliani. E poi il caso Cucchi: la procura chiede il processo per cinque carabinieri, per tre di loro l'accusa è di omicidio preterintenzionale. È la vicenda di un uomo di Treviso di 75 anni, malato di SLA da 5 anni, che ha chiesto di farsi addormentare finché non è morto. È il primo caso in Italia. Spazio europeo. Europa 24 notte. Si svolgerà in aprile la finale del concorso Startup Europe, cui l'Italia è già prontissima a partecipare. La selezione italiana è già stata chiusa con grande successo di partecipazione. 10 premiati per 10 categorie sono pronti a partire per la finale europea di Startup Europe, iniziativa promossa dal Parlamento e dalla Commissione europea nelle direzioni Connect e Grow. I 10 campi, spiega Giuseppe Laquidara, il country manager del concorso per l'Italia, sono fondamentalmente quelli indicati nel programma Horizon 2020. Ci sono state oltre 750 application valide, insomma una partecipazione fortissima, non soltanto per numero di startup ma anche per numero di organizzazioni, perché i 14 coorganizzatori regionali si sono portati dietro altre organizzazioni, sponsor, ciascuno ha fatto una propria giuria di delle volte anche una decina di persone, ciascuna da un'organizzazione diversa. Quindi la vivacità sul territorio c'è. E nei campi più disparati. Per esempio Mary Francese, laureata in economia, ed Enrico Giuliani, medico, lavorano a NeuronGuard, un dispositivo per il trattamento del danno cerebrale acuto in pazienti con ictus, trauma cranico grave o arresto cardiaco. È un collare refrigerante portatile. NeuronGuard nel 2017 avrà completato lo sviluppo del dispositivo per gli esseri umani. Quello che succederà successivamente, diciamo dall'estate in poi, sarà il vero e proprio studio clinico su dei pazienti. All'inizio uno studio su un gruppo di pazienti ristretto, cosiddetto studio pilota, e poi, questo però sarà nel 2018, uno studio multicentrico. Francesco Ardito è fondatore di Last Minute Sotto Casa, invece, startup premiata nell'ambito della sostenibilità. È un'app, fondamentalmente, che consente ai negozi di alimentari di informare i clienti sugli sconti che si stanno praticando su merce in eccedenza o in prossimità di scadenza, evitando lo spreco alimentare. Siamo andati a Torino, è cresciuto tanto a Torino, lo stiamo facendo crescere molto su Milano, abbiamo Bologna e Roma come prossime tappe su cui spingere, è entrata una grossa multinazionale con grossa attenzione agli aspetti etici. Pensiamo, grazie anche proprio a questo accordo con questa grossa realtà, di poter esportare a breve, nel 2017, il modello almeno in un paio di paesi, e in particolare Spagna e Portogallo. È in quest'ottica che per voi è importante anche partecipare a competizioni europee come Startup Europe? Dà sicuramente molto prestigio arrivare a questo punto dove siamo arrivati, e vediamo dove arriveremo a livello europeo, e dà anche molta visibilità, che genera ovviamente un traino fantastico per una realtà ancora piccola, se vogliamo, come la nostra. E per Enrico Giuliani? È un'occasione importantissima per creare delle opportunità di collaborazione, farsi conoscere magari da investitori esteri, incontrare dei possibili partner, magari industriali o commerciali. Il premio Invisibilità va bene, dice Giuseppe Laquidara, ma a livello nazionale abbiamo voluto fare di più. Abbiamo messo dei premi nazionali, quindi sono stati assegnati 27 premi nazionali dai nostri sponsor. Che hanno contribuito chi in denaro, chi in servizi a queste giovani imprese. Europa 24 notte. In collaborazione con Euronet Plus. Oh, adesso c'è Max Taxi che scrive tra pagina Facebook di Effetto Notte, il 349-238-6666, ma qualche ascoltatore vaneggia: Roma è così ridotta non per colpa di 5 Stelle, ma per 50 anni di gestione della sinistra e 5 della destra. Questa è la verità ed è importante che si sappia. Sicuramente di guai Roma ne aveva da vendere, però magari qualcuno rimane deluso in questi primi mesi, che grosse cose forse, però Grillo ha parlato di 90 successi della giunta Raggi qualche giorno fa. Vediamo come procede questa giunta, sperando che i problemi siano finiti. Adesso invece ci spostiamo in Val d'Aosta per una sentenza, modificando in parte la sentenza di primo grado. La prima sezione penale della Corte d'Appello di Torino ha condannato 15 dei 27 imputati dell'inchiesta sui costi della politica in Val d'Aosta. Le accuse sono, a vario titolo, di peculato, finanziamento illecito al partito e indebita percezione di contributi politici. Ma ce lo facciamo raccontare meglio da Stefano Sergi, responsabile della redazione di Aosta del quotidiano La Stampa. Stefano, ci racconti in sintesi qual è la vicenda? Sì, ciao Stefano. Buonasera. Ciao. La vicenda è quella di un indebito utilizzo dei fondi destinati al funzionamento dei gruppi consigliari nel Consiglio regionale della Valle d'Aosta della scorsa legislatura. In sostanza, questi 27 imputati sono accusati di aver usato in modo più che illecito, indebito questi fondi. Perché la vicenda è un po' intricata, nel senso che non sono mai emerse delle particolari spese pazze come ci sono state invece in altre zone d'Italia. Voglio dire, non stiamo parlando delle famose mutande verdi, sì, ecco, e neanche di feste da mille una notte. Piuttosto ci sono state tante piccole spese che, secondo i giudici, sono state fatte usando questi fondi pubblici, mentre in realtà dovevano essere usati o fondi privati o fondi dei partiti. Insomma, questi erano fondi destinati al mero funzionamento del gruppo consigliare, e quindi ci sono finiti di mezzo consiglieri regionali attuali, consiglieri regionali della passata legislatura e funzionari. I giudici hanno ribaltato totalmente la sentenza di primo grado, dove erano stati tutti assolti, tranne un imputato che aveva scelto di patteggiare, e per il resto erano state solo assoluzioni. In questo caso ci sono state 15 condanne che rischiano, avranno delle pesanti ripercussioni sulla politica, tra l'altro in un momento delicatissimo, perché il procuratore che oggi ha sostenuto l'accusa è lo stesso inviato dalla Procura di Torino ad Aosta per sostituire il procuratore di Aosta agli arresti domiciliari. Esatto. La situazione complessa. Sì, in più c'è una crisi politica in atto ormai da mesi. E il fatto che quattro consiglieri, tra cui un assessore, saranno sospesi rende la situazione più delicata. Direi delicatissima. Stefano Sergi, ti ringrazio, ci dobbiamo lasciare con lo Stefano Sergi della Stampa. Noi ci riaggiorniamo brevemente alle 22:00.